A bordo campo di Dario Ricci. Due ore mondiali sui 100 stile libero, una bella manciata di medaglie europee, classe 1982 da Pesaro, uno degli emblemi del nuoto italiano. Benvenuto a bordo campo, Filippo Magnini. Ciao a tutti. Allora Filippo, partiamo subito, stagione intensissima con europei in vasca corta, mondiali in vasca corta, poi Shanghai 2011, campionati del mondo. Come si parte, come sta il tuo motore? Ma io sto molto bene, ho ripreso dall'anno scorso, comunque che ho concluso l'annata con un ottimo campionato europeo a Budapest. Abbiamo ripreso subito i primi di settembre con insomma grande voglia di riportarci ad alti livelli. Ci saranno due appuntamenti, come hai detto, sia in vasca corta gli europei che mondiali, dove ovviamente saranno gare importanti. Non sarà l'obiettivo principale per me, che invece sarà il mondiale di Shanghai a fine luglio. Quello sicuramente cercherò di prepararlo al massimo, sia fisicamente che mentalmente, per cercare appunto di rispolverare un po' la corona che ho tatuata nel braccio. Tra l'altro, in un momento di passaggio direi generazionale, no, per la squadra maschile, campioni come Rosolino, Brembilla, ma anche tu, state vedendo nascere una nuova generazione di talenti. Da questo punto di vista come sta avvenendo questo passaggio? Insomma, è anche uno stimolo vedere i nuovi che vi incalzano. Ah certo, sicuramente prima o poi ci sarà anche definitivamente il passaggio, quindi si batteranno, noi magari staremo a commentare le loro gare, loro speriamo per loro insomma che vincano più medaglie possibile come abbiamo fatto noi, ma io penso che sia una bella cosa, stimolante per tutti. Io per adesso li sto tenendo ancora sotto controllo, questi giovani che comunque vengono forti, e loro mi vedono un po' come il loro capitano. Ovviamente quello che ho fatto io per loro è un sogno, come lo era per me 10 anni fa, e io gli auguro prima o poi di farlo, però per adesso speriamo poi, che ancora ci sono io. Poi io raramente vi faccio mettere la mano davanti in allenamento, quindi devono subito capire che ancora non ce n'è, però insomma è capitato che qualche volta magari in gare meno importanti però mi hanno battuto, e sono dei giovani molto forti, quindi verranno sicuramente fuori. Senti, intanto a trascinare il movimento sono un po' le donne, no? Federica Pellegrini, Alessia Filippi. Da questo punto di vista sentite un po' una rivalità con l'altra metà in rosa della piscina azzurra? No, quello no, guarda, alla fine adesso non so, io penso che negli ultimi 15 anni siano stati sempre gli uomini a dominare insomma nell'ambito sportivo. Tutte le medaglie che sono state, o le medaglie comunque più importanti, sono state quelle maschile. Adesso, grazie a Federica e Alessia, le donne sono riuscite a ottenere degli ottimi risultati, dei grandissimi risultati impensabili, quindi noi gli facciamo i complimenti, però nello sport maschile c'è un po' più di competitività, nel senso se nelle donne ci sono 4 o 5 campionesse fortissime, negli uomini ce ne sono 20 o 30, però quello che ha fatto Federica e quello che ha fatto Alessia è una cosa, penso qualche anno fa, impensabile. Gli facciamo i complimenti, ma la nostra lotta non è con loro, anzi, siamo ben felici che continuano a vincere le donne e poi magari che riusciamo a vincere di nuovo noi. Sì, insomma, a dimostrazione di quello che dici, anche i risultati della finale olimpica di Pechino e di Roma 2009, pochissimi centesimi che ti hanno esclusi dalla finale, no? Rimpianti in quel senso? Immagino di sì. E come si gestisce il post di queste delusioni? Ma diciamo che ho avuto forse più rimpianti per le Olimpiadi di Pechino, ma non tanto perché erano Olimpiadi rispetto a un mondiale, perché alle Olimpiadi di Pechino stavo bene. E quindi ho sbagliato io la gara, non sono andato con la testa giusta, ho fatto due prestazioni nelle staffette impressionanti, perché ho nuotato la seconda prestazione mai nuotata al mondo nei 200 stile libero, solo battuto da Michael Phelps. Nei 100 penso di aver nuotato un decimo più di Bernard, che poi ha vinto l'Olimpiade, quindi io ero in forma e la gara mia l'ho sbagliata. A Roma purtroppo avevo una lesione al cercine alla spalla sinistra e quindi non ero competitivo. Forse non dovevo fare un mondiale, perché magari quando non sei al 100% è meglio non buttarsi, però io sono uno così, insomma, se ci prova sempre anche quando non sta al 100%. Forse un altro rimpianto è anche legato al famoso tema Superbody, no? Per caratteristiche tecniche e tipologia di nuotata sei uno dei nuotatori che forse più ha pagato quei 2 anni di Superbody prima del ritorno al tessuto tradizionale. Ah beh, quello sicuro, però purtroppo non è stata colpa mia, quindi non potevo fare niente, ero un po' così, dovevo stare soltanto a guardare quello che stava combinando il mondo del nuoto. Per fortuna io sono sempre stato contrario e il tempo mi ha dato ragione. Adesso atleti che hanno nuotato 47-0 ai campionati del mondo di Roma, adesso nuotano 48,5. Quindi loro hanno guadagnato più o meno un secondo e mezzo. Io avevo guadagnato sui 4-5 decimi. Dicevamo di rivali, Cielo che va per la maggiore, Bernard come al solito, Busquet e poi? Poi c'è Hayden che adesso ha fatto comunque il miglior tempo crono dell'anno, che è 47-98-99, quindi un atleta fortissimo che poi ha vinto il mondiale a pari merito con me a Melbourne, il secondo titolo per me. Sicuramente ci sono gli americani, perché Nathan Andre ha nuotato 48-1, quindi anche lui un fortissimo atleta. I nomi ci sono, i nomi ce ne sono, come nel nuoto, nella mia gara ci sono sempre stati, però sai, quando lotti a 2-3 decimi dai più forti, sai che puoi lottare. Quando sei a un secondo e mezzo, come magari l'anno scorso, a causa di questi super body, o a causa magari anche di problemi miei, che non mi ero allenato benissimo, è più difficile. Quindi adesso, quando li vedi a mezzo secondo, 3 o 4 decimi, pensi che sono tutti raggiungibili. A proposito di velocità e di sorpassi, pesarese come te c'è Valentino Rossi, no? E so che sei un suo grande tifoso, un suo grande amico. Ti chiedo, come vedi questo approdo in Ducati, questo team tutto italiano, da appassionati entrambi di grandi velocità, uno in piscina e uno in pista? Finalmente, visto che io ho una Ducati 1998, posso dire la moto di Valentino Rossi anch'io, no? Perché sennò insomma mi sentivo, non dico quasi in difetto, dire la moto una Ducati, però Valentino, no? Quindi no, io sono molto contento. Poi insomma, adesso io penso che finché Valentino sarà nelle moto, qualunque motocicletta sarà, cioè deciderà di guidare, sarà uno spettacolo. Quindi speriamo insomma che abbia fatto la scelta giusta e che ci faccia divertire ancora di più con la Ducati, ma lui sicuramente lo farà. Con Valentino condividi anche la passione e la fede calcistica, entrambi interisti. Tu a quale partito sei iscritto? I nostalgici murignani o quelli che danno fiducia al nuovo Benitez? Ma fiducia bisogna sempre darla, per forza, però Mourinho secondo me era uno spettacolo, nel senso che alla fine nel bene o nel male faceva parlare di se stesso, nel bene o nel male ha portato la squadra a quello che ha fatto, insomma, a vincere la Champions League, a vincere il campionato, a vincere tutto. Adesso dove è andato sta continuando a fare bene, quindi vuol dire che poi tanto, insomma, tanto stupido non era, anzi era sicuramente un grandissimo allenatore, quindi un po' nostalgico, ma diamo fiducia anche ai nuovi. Tornando invece seri, sempre aperto è il dibattito sull'impegno del nuoto, del mondo del nuoto sul tema doping. Tu in passato sei sempre stato tra i promotori di campagne serie, di un impegno molto forte nella battaglia al doping. Credi che da questo punto di vista si siano fatti dei progressi? Sì, quali e cosa bisogna ancora fare, Filippo? Non lo so, io penso che non si sia stato fatto nessun progresso, assolutamente. Non sono proprio contento per niente di quello che insomma, dei controlli che si fanno. Secondo me sono, cioè anche adesso che è stato comunque trovato positivo, no? Un atleta francese, per negligenza gli sono stati dati 2 mesi, mentre a un nostro compagno italiano che rischiava di perdere l'occhio se non avesse preso il medicinale al cortisone per curarsi, gli sono stati dati per negligenza 2 anni. Quindi queste cose a me fanno un po' ridere, però quello è un peccato, a me dispiace. Alla fine, sai, ti spacchi veramente la schiena tutti i giorni e poi vedi queste cose, un po' ti fa storcere il naso. Diamo fiducia a tutti, sono tutti atleti, diciamo, puliti, speriamo in questo. Io credo in uno sport pulito. Sicuramente in Italia i casi di doping forse si contano nella punta, non di una mano, ma di mezza mano. Negli altri paesi un po' di più. Diciamo che la differenza nostra è che in Italia è reato penale, sia per il dottore che per l'atleta, negli altri paesi no. E quindi noi siamo un esempio, secondo me, come paese nella lotta contro il doping. Io anni fa avevo quasi cercato di aprire una nuova strada con controlli al DNA, addirittura controlli del sangue, queste cose qui, ma non sono controlli che magari costano troppo, quindi è meglio fare l'urina che costa un po' di più rispetto al sangue. Queste cose qui un po' fanno, a me dispiace molto, però per non entrare in polemica, speriamo che siano tutti insomma positivi. Io so sicuro che posso camminare a testa alta, quello sì. Senti, torniamo a guardare alla piscina, certo, e all'agonismo. Londra 2012, il prossimo grande obiettivo. E dopo sappiamo, insomma, dei tuoi impegni nel campo della moda, della TV. Sei stato uno dei primi atleti che all'apice della sua carriera ha partecipato attivamente a un reality show, all'Isola dei Famosi. Ecco, come ti immagini Filippo Magnini fuori dall'acqua? Ma non lo so, adesso la vedo un po' in modo diverso, nel senso che adesso voglio togliermi veramente delle altre soddisfazioni nel nuoto, quindi come poi potete vedere mi sono allontanato completamente da tutto, da qualunque tipo di visibilità, nel senso di distrazioni, perché comunque è vero, riesci a fare tutto se riesci a conciliare le cose, però sono un po' di energie, te le toglie anche la TV, te le toglie queste cose qua, quindi adesso sto limitando tantissimo, quasi sparendo, però io mi sono divertito a fare quello che ho fatto, poi in un futuro posso anche prendere strade più, non dico normali, ma strade diverse, poi cercherò di eccellere anche in quelle strade, magari in un lavoro o nella mia vita privata, però perché sono fatto così io, però non so poi se cercherò mai quell'ambiente lì, vediamo. Allora ti salutiamo, un grande in bocca al lupo e confessaci, il prossimo sogno del Filippo Magnini nuotatore e invece poi del Filippo Magnini fuori dall'acqua? Allora, intanto crepi il lupo. Allora, il sogno di Filippo Magnini nuotatore sicuramente prendere una medaglia o ai mondiali di Shanghai o alle Olimpiadi o tutte e due. E il sogno di Filippo invece come persona, ma quando si chiuderà la parentesi del nuoto, magari affiancare la parentesi del nuoto tra qualche tempo un mio nucleo familiare, una mia tornare a Pesaro, tornare nella mia città, iniziare a vivere un po' la vita normale delle persone insomma che lavorano, magari di quelle che come me giocano nel nuoto, magari facendosi un giro in Ducati con Valentino. Ah, volentieri. Quando avremo tempo tutte e due, perché mi sa che anche lui ne ha poco. A bordo campo. Da Filippo Magnini, passato, presente, sicuramente anche futuro del nuoto italiano, a Fabio Scozzoli, talento emergente ma già medagliato, no Fabio? Benvenuto intanto a bordo campo. Grazie, ciao a tutti. Allora Fabio, un oro importantissimo a Budapest, gli ultimi europei sui 50 metri rana, un bronzo sui 100 metri, direi che sono le medaglie che ti hanno un po' consacrato come grande talento del nuoto azzurro. Sì, diciamo un bronzo ancora più importante dell'oro dei 50 in vista olimpica. Dai, io sono contento di come è andata la stagione scorsa, ho 22 anni e quindi era il momento giusto per venire fuori, per emergere, perché non fosse troppo tardi, e è il momento giusto per iniziare, diciamo, una buona carriera. L'accento lo testimonia, vieni dalla Romagna, terra di grandi campioni, quell'Appennino, insomma, viene in mente Tomba, Razzoli, i talenti delle moto, infatti, insomma, vuol dire che insomma le tagliatelle sono a buona benzina, no? Sì. Io poi sono di Forlì come Dovizioso, quindi le tagliatelle della mamma sono sempre la cosa più buona e anche un buon serbatoio di energia. Sei uno dei talenti della nuova generazione in un settore, quello maschile, che sta vivendo una fase di passaggio, no? Tra i grandi campioni come Magnini, Rosolino, Brembilla e voi che state emergendo. Una fase di passaggio che come vivete voi rispetto a questi che sono i vostri fratelli maggiori? Innanzitutto prendendo spunto da loro, nel senso che comunque alle gare, ai collegiali di allenamenti loro ci sono ancora, non è che la loro carriera è finita, soprattutto io parlo di Filippo che per me è un riferimento. Si guarda come si comporta un campione, si cerca di trarre il massimo da lui e nello stesso tempo mettere tutto quello che hai e sperare magari di diventare come lui. Senti, ma si riesce a rubare di più in piscina, nei momenti dell'allenamento o magari a bordo vasca quando si chiacchiera, ci si confronta anche su temi extra natatori? Diciamo un po' su tutte e due, nel senso che comunque la vita del nuotatore e di un campione non è solo in vasca, ma è, anzi, diciamo soprattutto al di fuori, nel senso che è una vita di, tra virgolette, rigore e sacrifici e comunque sono tutti sacrifici che si fanno volentieri e poi nel momento delle soddisfazioni, quando arrivano, è una cosa bellissima. Ranista per vocazione, per scelta, come si arriva a uno stile così particolare, così tecnico? Cominci da piccolo, un po' tutti cercano di portare avanti tutti e quattro gli stili, poi chiaramente si comincia a vedere da subito quello che ti riesce meglio, poi decidi, quando arrivi a un certo punto si decide quello che è meglio per te anche da una conformazione fisica e quindi si decide di lavorare su quello e si concentra. La controrivoluzione dei costumi, no? Il ritorno al tessuto tradizionale rispetto a quello che erano stati i superbody che per un paio d'anni hanno caratterizzato il mondo del nuoto, come influisce sul tuo stile di nuotare e in particolare anche nella rana, che influenze hai avuto? Beh, da quello che ho notato, la rana è uno degli stili che è stato velocizzato di più. Però per quanto mi riguarda è cambiato poco, nel senso che questi costumi sono venuti fuori nel momento in cui io stavo emergendo e mi hanno tra virgolette aiutato, nel senso che io ho raggiunto dei tempi che magari in quel momento non avrei raggiunto e adesso che sono cresciuto ancora, hanno tolto i costumi, io diciamo nei 50 per esempio ho anche migliorato il tempo che ho fatto con il super costume e nei 100 l'ho avvicinato tantissimo e può essere anche uno stimolo in più. Torniamo un po' sempre a bordo vasca, ai tuoi punti di riferimento, dici rana, dici Domenico Fioravanti, no? Tutti abbiamo negli occhi quegli straordinari trionfi di Sydney, da questo punto di vista che rapporto avete, sei in contatto con lui, chiedi consigli? No, no, purtroppo no, nel senso che ci vediamo giusto alle gare, niente di, non c'è un rapporto vero, quindi è semplicemente un rapporto professionale. Rimane l'ispirazione, insomma, però a quegli ori, a quei successi. Eh beh, rimane sicuramente un mito. Invece con Filippo è derby anche dal punto di vista calcistico, no? Lui interista, tu milanista, da quel punto di vista non è possibile nessun accordo. No, no, però per fortuna ho dei buoni appoggi, nel senso che in nazionale ci sono molti milanisti e soprattutto lui non è così tifoso. Quando si parla di calcio si fa sempre in modo scherzoso, non è mai come un ultra che magari si può arrabbiare o arrivare a un diverbio vero e proprio. Senti, punto di riferimento però nello sport, guarda caso, Pippo Inzaghi, no? Uno che in fatto di successi e di longevità di carriera non ha forse paragoni al mondo. Cosa ti colpisce e cosa ti ispiri, in particolare guardando proprio Super Pippo? Beh, lui è un grande professionista a livello proprio di allenamenti, di vita proprio da sportivo, sa fare i sacrifici nel momento giusto e anche divertirsi quando c'è tempo. Comunque io essendo milanista è chiaro che vederlo segnare, non so, nella finale di Champions del 2007 mi ha fatto piangere, quindi per me è un idolo proprio. A proposito di sacrifici, qual è il sacrificio più grande che hai fatto, che fai in nome del nuoto? Beh, diciamo non uscire tanto il sabato sera come fanno i miei amici, il venerdì o il sabato sera loro escono sempre, vanno a ballare, così io no, io faccio magari mi faccio una serata tranquilla con la mia ragazza, esco a mezzanotte, sono a letto, per dire. Insomma, grandi DVD, ecco, piuttosto che serate in discoteca. Esatto, cinema, DVD, infatti sono un appassionato anche di filmografia. Tuoi attori preferiti? Stallone, Sylvester Stallone. Quindi Rocky a manetta. Rocky Balboa è un idolo. Ti chiedo ancora obiettivi stagionali, siamo ormai in prossimità degli europei in vasca corta e poi c'è Shanghai 2011, il mondiale. Ecco, Budapest ti ha dato la consapevolezza di poter essere competitivo anche a livello mondiale? Penso che per essere competitivo a livello mondiale ci sia bisogno ancora di un passo, bisogna continuare su questa strada di crescita per essere competitivi con i primi a livello mondiale, perché diciamo che potrei puntare sicuramente a una finale mondiale, però non bisogna accontentarsi, nel senso che dal momento in cui uno partecipa vuole partecipare da protagonista e come dicevo, continuando su questa strada, io a me piacerebbe tanto arrivare a prendere una medaglia. Beh, medaglia allora è Olimpiadi, è Londra 2012, no? Un cammino che è già iniziato, siamo a metà del quadriennio. Come te la immagini questa tua prima Olimpiadi? Innanzitutto sul cammino ci sono i mondiali di Shanghai di quest'altro anno e quelli saranno una prova di verifica importantissima, nel senso che se sono competitivo a livello mondiale vuol dire che posso preparare bene un'Olimpiade e poter puntare a una finale, a un'eventuale medaglia. Sono sicuramente, diciamo, un sogno, nel senso che per un nuotatore l'Olimpiade è la massima competizione, e anche per uno sportivo, non solo un nuotatore, diciamo calcio a parte. E quindi arrivare lì, poter lottare per una medaglia, sarebbe veramente qualcosa di fantastico. E allora, Fabio Scozzoli, ti strappiamo una promessa: ti aspettiamo ancora a bordo campo, magari con una medaglia mondiale, tanto per iniziare, al collo, eh? Speriamo, va bene. E allora staremo a vedere cosa riusciranno a fare Filippo Magnini, Fabio Scozzoli e gli altri azzurri agli europei in vasca corta di Eindhoven e nel resto della stagione sulla strada che porta a Londra 2012. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abbordocampo@radio24.it. L'appuntamento è domenica prossima, sempre alle 14.30, e in replica il sabato mattina alle 6.30. Un saluto da Dario Ricci.